Lo spessore psicologico insito in la cupa di Daniele Santagiuliano alla Dead Ambient, attraversato da rumori sinistri qua e là. Due capitoli per Daniele Santagiuliano, la cupa e la cupa pendice. Buonasera a Dario Arrighi e Sara Capo Fontana di Progetto No Name, Moschita di Miramar, Simona che ci sta ascoltando da Harlem in Olanda, Feralia Planizia, un interessante progetto elettro che ci ascolteremo anche lunedì prossimo, Francesco Cornello in quel di Bergamo, Lucia Cagliazza di Lupsi. Artista di spessore dunque Daniele Santagiuliano, e da lui andiamo a visitare un altro protagonista della scena italiana da molti molti anni. Trattasi di Simon Balestrazzi, abbastanza prolifico in questi ultimi tempi, e questa sera abbiamo qui Cautionary Tales, Cautionary Tales, che esce per la Standa, etichetta da seguire assolutamente. Si apre con Epitaph to Practical Dreamer e poi Reliquary of a Forgotten Light. Trattasi di Cautionary Tales per quanto riguarda Simon Balestrazzi, che ci dona una serie di palpiti e grovigli alquanto sperimentali, vera e propria eminenza grigia della scena degli ultimi anni. Degli ultimi anni, tra virgolette, perché in realtà Simon Balestrazzi ha iniziato la sua carriera tanti anni fa. E l'ha iniziata all'ombra, per esempio, di tomografia assiale computerizzata nei Killian Camera e poi Candle Chasma, Hidden Rivers. Assolutamente sempre in ottimi livelli creativi, Simon Balestrazzi. Saluto anche Daniele Santa Giuliana, con il quale abbiamo iniziato, e noi si va avanti. Ci spostiamo dall'Italia, andiamo, almeno per quanto riguarda ciò che andremo ad ascoltare, in India, anche se poi l'idea è nata a Napoli grazie a Raffaele Pezzella. Naturalmente sto andando da Indian Music Survey, Anthology of Exploratory Music from India. Come si evince dal titolo, dunque, un'esplorazione, un viaggio esplorativo nella scena sotterranea indiana, ricca di talenti. Questa sera altri due. Sukanta Majumdar con Rights of Labor, e poi ci ascolteremo Farah Mullah con Out of Reach. Thank you. Thank you. due aspetti diversi di questa compilation dedicata alla scena indiana, questa antologia di esplorazione vera e propria nella musica indiana. Prima con Sukanta Majumdar, vero e proprio rituale tribale, qualcosa di veramente ancestrale, e poi invece questa traccia dai toni decisamente più sperimentali ad opera di Faramulla, questa Auto Reach. Saluto anche Valerio Michetti della Grazia Obliqua, e che sarà anche di supporto ai Pankoff con il suo progetto elettronico Fade to Grace, in coppia con Alessandra Trinity Berziani, il prossimo 27 novembre qui a Roma. E poi un grosso ciao anche a Wurnus Island dal Piemonte. Come ogni novembre che si rispetti, noi andiamo ad omaggiare John Balance e Peter Christopherson, morti entrambi in questo mese, anche se in anni diversi. Naturalmente sto parlando dei Coil. John Balance morì il 13 novembre del 2004, mentre Peter Christopherson, indimenticato anche fondatore di Throbbing Gristle, morì nel novembre però del 2010. Quindi sono andato a ripescare del cosiddetto materiale d'archivio, che va proprio sotto una discografia a parte dei Coil, si chiama Threshold Archives, e contiene per la maggior parte tracce remixate, qualche inedito, delle vere e proprie chicche. E sono veramente tanti, se andate a vedere questo materiale d'archivio uscito dopo il 2015, parzialmente, nel senso che lo iniziò Peter Christopherson nel 2006, e dopo la sua morte lo portò avanti una parte della sua famiglia e gli amici più intimi. E allora abbiamo qui questo album dal nome Panic. Panic è stato anche un famoso 12 pollici dei Coil proprio all'inizio della loro carriera, uscì su Scatology, ricordiamo, nel 1984. Questa sera invece ho deciso di mandare una versione diversa di Restless Day, poi un inedito, questo Neither Hears Or Howards, e poi Panic Alt Mix al violoncello, quindi uno dei tanti remixaggi e versioni di Panic. Cold and gray, no bread or milk or tea. cage, a liable to stray. Incredibile versione dunque di Panic. Panic Alt Mix Cello, violoncello. Anticipata da Neither Is Here Is Her Hears. E poi Restless Day in una versione alternativa rispetto a quella originale. Tutto ciò ovviamente per i Coil di John Balance e Peter Christofferson, questi i fondatori. Ho avuto la fortuna di vederli nel maggio 2004 in quel del Wave Gothic Treffen a Lipsia. Lui, John Balance, vestito in camicia di forza, gli altri nascosti dietro una tenda bianca che volteggiavano, e volteggiavano tutti e tre sul palco. Spettacolo indimenticabile, purtroppo finito dopo qualche mese in un incidente domestico. Lasciamo i Coil, che chiaramente andremo ad omaggiare anche la prossima settimana, e si va avanti. Sempre un artista almeno qui datato, gli Swans da Soundtracks for the Blind, vecchio lavoro del 1996. L'abbiamo ascoltato per molte settimane, anche perché è un doppio CD. Questa sera è il turno di I Love You This Much. La spasmodica aggressione sonica che ci ha dato Swans da questo Soundtracks for the Blind, vecchio lavoro del 1996, album famoso soprattutto per le inusuali soluzioni sonore proposte da Michael Gira e soci. Album decisamente anomalo per loro, un album che sancì da lì a poco anche la fine della prima fase artistica degli Swans, ripresi poi nel 2010. Intanto sono le ore 22 qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza www.ondarossa.info. Ricordo dopo 25 o'clock in cerca di chissà che cosa qui in radio, ma non la troverà sicuramente. Lui inizierà alle 22.30.